Friuli nel mondo, 186esima trasmissione dedicata agli emigrati. Carrellata di villotte. Alcune melodiose villotte, che tanto profondamente esprimono l'anima semplice ed appassionata della nostra terra, sono il tema della trasmissione che oggi dedichiamo a voi, cari amici radioascoltatori. L'esecuzione è affidata a due complessi corali formati da studenti, operai e contadini che sentono vivo il bisogno in questi tempi di febbrile progresso di ritemprarsi nelle limpide e pure sorgive dei sereni canti del Friuli. Dal coro Tita Birchebner di Tapogliano e Nogaredo al Torre, diretto da Giovanni Famea, ascoltiamo Viva Osoppo, Il gno ben le la tinguere e Il Furlan. Viva Osoppo e Zanini, fortezza di Carlo Alberto, guerriero in Italia. Il suo sangue si è sparso in battaglia, i suoi cannoni si sentono con noi. Guerriero, guerriero, guerriero Rataplan. Guerriero, guerriero, guerriero Rataplan. Il Il coro Giuseppe Peresson di Piano d'Arta, diretto da Arnaldo De Colle, esegue Osu Night Ciampanis, Primavere e Mandi Mandi. Oh. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pelizzari.